13. Ascolta e indica che cosa si descrive. 1. Sento caldo. 2. Sentiamo il profumo delle rose. 3. Si sentiva male, allora è andato via. 4. Sentono la nostalgia di casa. 5. Sente bussare alla porta, ma non apre. 6. Tutte le sere sentiamo cantare.